Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, ho visto in questi giorni ristoranti affollati, strade con lunghe code, alberghi pieni, città d'arte gremite di turisti. Molti certamente erano turisti stranieri e dobbiamo compiacerci che l'Italia stia tornando una meta per le vacanze. Ma per la grande maggioranza erano italiani, quegli stessi italiani che denunciano al fisco di guadagnare poco più di 1.000 euro al mese. Sbaglio o c'è qualcosa che non va? Amelia. Cara Amelia, lei insinua il sospetto che in Italia ci sia qualcuno che non paga le tasse, che denuncia di guadagnare 1.000 euro al mese, ma nello stesso tempo si permette di spendere questi stessi 1.000 euro per divertirsi nel weekend di Pasqua. Qualche indizio indubbiamente c'è, così come c'è sicuramente anche una larga fascia di evasione. Ma non dimentichiamo che gli italiani hanno anche grandi risorse e dimostrano di saper vivere anche al di sopra dei propri mezzi. Si va in vacanza nella casa del nonno, si mangia anche l'ultimo avanzo per permettersi una volta ogni tanto un pranzo al ristorante, spesso si parte al mattino e si torna la sera. La grande maggioranza degli italiani fa tutto il proprio dovere di fronte al fisco, anche perché per i lavoratori dipendenti l'evasione è quasi impossibile. E quindi lasciamoli andare in vacanza tranquillamente e speriamo sia stata per tutti una buona Pasqua. Vi scrivo dopo aver letto le notizie sui redditi, in base alle quali solo il 3% degli italiani dichiara un reddito superiore ai 150.000 euro lordi l'anno e la maggior parte di questi sono lavoratori dipendenti o pensionati. E naturalmente per la stampa questa è l'ennesima dimostrazione che i lavoratori autonomi e liberi professionisti evadono il fisco. Questa è una tattica che va avanti almeno dagli anni 70, da quando i sindacati si sono inventati la parola d'ordine per la quale artigiani, liberi professionisti, eccetera, evadono e per colpa loro il giardino d'Europa va male. Io sono un libero professionista, ma se non fosse per i fidi della banca non riuscirei nemmeno a fare la spesa, senza contare il fatto che i clienti pagano sempre in ritardo, eccetera. Ogni occasione è buona per aumentare le tasse. C'è il 40% che non paga il canone RAI e giù a chiedere soldi. Lo Stato non finanzia la ricerca e giù a chiedere soldi. La polizia non ha più la benzina e giù a chiedere soldi. Stanno massacrando la scuola con tutti questi tagli e giù a chiedere soldi per progetti improbabili e quant'altro. La magistratura non ha soldi per i computer e ci si strappa le vesti. Poi però li trova per fare migliaia di inchieste da settimana enigmistica. Se davvero si vuole risolvere almeno in parte il problema, si privatizzi il più possibile e finiranno gli evasori. E magari sarebbero stimolati anche gli offerenti a fare meglio. Per me anche la scuola dovrebbe dare un rimborso alle famiglie che utilizzano le scuole private. Credo sia morale, oltre che giusto, che chi usa i servizi privati, medici privati, scuole private, eccetera, non debba poi pagare in toto la solidarietà orizzontale. Ippolito. Buongiorno, vorrei dare una personale testimonianza su come oggi percepisco il dialogo pubblico nella vita quotidiana. Osservando lo svolgersi dell'attuale vita politica, sociale e culturale del mio paese, mi rendo sempre più conto che il valore della parola si sta perdendo. Nessuno considera oggettivamente i fatti, o meglio, ognuno ne dà una sua interpretazione del tutto personale. Ed è vero che alla fine della fiera tutti hanno ragione e la collettività ha torto. Questo stato di cose impazza ormai da qualche decennio e non sembra esserci soluzione. Nessuno si pone più il problema di ciò che dice, anche perché nessuno ricorda, a cose fatte, ciò che si era detto. E anche se ciò dovesse accadere, vi è sempre un nuovo modo di interpretare, contestualizzare e infine stravolgere il senso delle cose. La parola sta sempre più migrando verso il non valore. I latini recitavano «verba volant, scripta manent». A parer mio, nell'era della comunicazione mediatica, anche le parole restano. Tutto ciò che viene divorato dal circuito mediatico rimane registrato e archiviato. Tuttavia nessuno sembra dar peso a questo fattore. La parola continua a scorrere e di fatto sembra che il circuito mediatico, la tecnologia di cui si fa promotrice, si sia adeguato alla regola della massima verba volant. Nessuno ricorda, viviamo in un perenne stato di scontro. Dal basso del nucleo familiare all'alto delle istituzioni, sembrano esserci ogni giorno le condizioni perché il dettame dell'ipocrisia si innalzi a prima norma costituzionale della nostra democrazia. A scanso di equivoci, la parola ipocrisia indica l'incoerenza voluta tra azioni svolte e valori enunciati tacitamente o esplicitamente, mentre democrazia deriva dalle parole greche demos, popolo, e kratos, potere, e etimologicamente significa quindi governo del popolo. Da qui nasce la commistione dei due termini in uno solo, la democrisia. Ed è quella di cui attualmente mi vedo circondato ogni giorno nel sistema della globalizzazione dell'informazione. Ho una bimba di 2 anni cui un giorno dovrei spiegare la differenza tra bene e male, tra giusto e sbagliato, tra vero e falso, e ad oggi non saprei cosa dire. E ciò mi rattrista. La mia educazione, che mi è stata data da gente semplice e fatta di sani principi, si è presto trasformata in un motivo di svantaggio sociale. Ho portato avanti gli studi fino alla laurea, sostenuto da sacrifici immensi, ma non sono mai riuscito a rassegnarmi ad accettare le cose per come vanno. E da qui nasce lo svantaggio, dato che oggi più che mai bisogna apparire, piuttosto che essere. Si può apparire e si deve apparire pieni di sani principi e proferire nobili parole ricche di significato, purché poi, nel privato, quando i riflettori della società si spengono, si sia disposti ad agire senza troppe remore, senza troppi rimorsi, per ciò che va fatto ad ogni costo nel quotidiano. Non è importante, nella sostanza dei fatti, essere consapevoli di far parte di una collettività che col nostro apporto contribuiamo a sviluppare, ma piuttosto essere disposti a far di tutto purché da essa si tragga il massimo vantaggio individuale. Il mondo attuale e l'Italia nel suo infinito microcosmo ne sono l'incarnazione. Sono orientate alla regola del massimo profitto da ottenere attraverso una rete di relazioni individuali e personali sommerse, in cui si curano i fatti della vita lasciando alla collettività l'ipocrisia della parola pubblica. Questo è l'esempio che oggi ci viene dai media invasi da persone ricche di relazioni, ma povere di significato, e che lanciano un messaggio ben chiaro alla società che si sveglia ogni giorno. Ed è quello del «esiste una scorciatoia per tutto. Basta relazionarsi negli ambienti giusti e nei giusti modi, senza troppo clamore». Sebastiano. Ma che razza di politici abbiamo? Neanche i bimbi dell'asilo. Ora, dopo Bersani che veltroneggia, anche la Bonino si accorge ad elezioni finite che la Polverini era appoggiata da Berlusconi. Incredibile, non l'avevano avvertita prima. E poi, diciamoci la verità, non mi sembra ci sia un gran feeling tra CEI e governo. Ma si sa, la colpa è sempre di qualcun altro, mai che si ammettano i propri errori. E così facendo, temo non troveranno mai la soluzione. Una delle poche voci intelligenti che ho sentito è stato Renzi, abbastanza critico nei confronti del suo partito, Susi Livorno. Mi chiamo Andrea e sono un giovane laureato in procinto di lasciare il paese per un dottorato all'estero. Sono un ex elettore del PD, in questa tornata ho votato per il movimento di Grillo e ho ricevuto via mail la lettera che Bersani ha scritto ai circoli per fare il punto sulla situazione. Per buona educazione ho risposto nel modo seguente al segretario del PD. Caro Bersani, lei dice che il partito è in piedi e che la colpa dei problemi dell'Italia è del Presidente del Consiglio. Io penso che il problema dell'Italia siano questi azzeccagarbugli come lei, Bersani, che appartengono a un'epoca passata e non permettono al progresso intellettuale e politico di fare il proprio corso. Si dimetta lei e la corazzata di mummie che ha permesso a Berlusconi di resuscitare a più riprese. Cordialmente, Andrea. Ora, sulla base della mia risposta, una risposta di pancia, sapreste dirmi in quale immonda categoria di elettori rientro? Se nei moderati, nei qualunquisti, negli antipolitici? Aiutatemi a capire in quale girone infernale potrei essere riposto dai leader del PD, colpevole di non avergli confermato il voto senza aver capito la bontà del loro operato. Andrea. L'anno scorso, per lavoro, ho viaggiato sulla rete ferroviaria Deutsche Bahn. In tutte le stazioni, sia a est, Berlino, Lipsia, che a ovest, Colonia, Bonn, ho notato con una certa sorpresa un gran numero di viaggiatori con bici al seguito. In Germania, numerosi treni hanno un bagagliaio per le bici. Un vano ampio, funzionale e facilmente accessibile, la cui posizione è segnalata in maniera chiara, così che salire e scendere dal treno con la propria bici è un'operazione facile, veloce e naturale. Anche sulla rete ferroviaria italiana, su alcuni treni il trasporto bici è contemplato, almeno in teoria. I vani portabici dei treni sono difficilmente accessibili e la loro posizione non è quasi mai segnalata, così che il povero viaggiatore con bici al seguito, una volta su due, è costretto a precipitarsi al capo opposto della banchina per cercare di salire con la propria bici prima che il treno riparta. Ciò è quanto successo domenica scorsa alla mia famiglia. Il tempo perso a raggiungere l'altro capo del treno attraverso una banchina piuttosto affollata ha fatto sì che le porte della carrozza cominciassero a chiudersi quando c'erano ancora un paio di bici da caricare, con conseguente ulteriore ritardo nelle operazioni di carico, oltre che disagio per noi che viaggiavamo con dei bambini. Sembra quasi che Trenitalia consideri il trasporto bici sui treni un fastidio, piuttosto che l'opportunità di offrire un servizio che renda ancor più competitiva e vantaggiosa la scelta del treno. Non solo l'azienda non investe per cercare di offrire un servizio di trasporto bici che rispetti gli standard europei, ma non si cura di rendere efficiente il servizio erogato, nemmeno quando ciò sarebbe a costo zero. Basterebbe indicare chiaramente la posizione del vano bici, avvisando con gli altoparlanti di eventuali variazioni. È forse chiedere troppo. Carlo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.